La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi e 33 secondi. Siamo in diretta qui dagli studi di Milano. Oscar Giannino vi ringrazia, come sempre, per l'ascolto in diretto in podcast della versione. E vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Lunedì 19 giugno, a cosa dedichiamo la puntata? Io vi prego di telefonarci 800 24 00 24. La puntata è dedicata a un anno dopo l'elezione di Virginia Raggi al Campidoglio a Roma, e quindi la vittoria dei 5 Stelle, il bilancio di questo anno. Cosa vi sembra, qualunque sia il vostro punto di vista, con esempi concreti, qual è secondo voi il settore in cui avete visto qualcosa di più, di meno, delusi, contenti, comprensivi verso i ritardi e i problemi? Articolateci il vostro giudizio. Lo spunto poiché se qualcuno di voi è ancora così matto da leggere i giornali stampati, in realtà il bilancio di un anno dei sindaci nelle città è una cosa che negli ultimi giorni hanno fatto molti quotidiani, è quello che, a mio modestissimo giudizio, è stato fatto con più lavoro certosino sui numeri. Quindi a me è sembrato, mi assumo la responsabilità di questo giudizio, un bilancio nel quale non avvertivo l'influenza di un favore o di una critica pregiudiziale nei confronti del sindaco e della sua giunta, perché ci sono poi giornali che hanno linee editoriali e quindi ci sono giornali che hanno delle posizioni su questo che nel tempo poi esprimono. Ma invece mi è sembrato un giudizio, appunto, che si sforzava di partire dai numeri, e che oltretutto aveva anche l'onestà di dire: noi abbiamo chiesto più volte di confrontarci direttamente con il sindaco e il sindaco però non ci ha incontrato, né ha delegato qualcuno a incontrarci. Sulla Stampa è comparso ieri, erano due pagine della Stampa che sono comparse ieri, a firma di Alessandro Barbera, che è qui con noi, che ringrazio. Buon pomeriggio. Ah, non c'è ancora Alessandro Barbera, non sta rispondendo, io lo davo per scontato che ci fosse. Aggiungo che per riequilibrare, per così dire, sul Messaggero di oggi, proprio in risposta a un analogo bilancio che il Messaggero ha vergato di un anno di Giunta Raggi, è pubblicato un articolo di Virginia Raggi, e quindi io, per così dire, alternerò al racconto da parte di Alessandro Barbera del bilancio che ha scritto ieri, anche però dei pezzi del sindaco Raggi, che a fronte di critiche da parte del Messaggero si difende. Il titolo dell'intervento del sindaco di Roma è: stiamo invertendo la rotta, in 5 anni cambiamo la città, e riprende i punti di partenza del disastro ereditato. Quindi dice: sì, molte delle cose su cui ci criticate derivano infatti da quello che abbiamo trovato. Allora, poiché mi dicono che ancora Alessandro Barbera non risponde, io intanto inizio da un punto, quando dicevo i numeri. Allora, Alessandro Barbera, nella sua analisi, inizia dalle ordinanze emesse dal sindaco. E in questo anno ci sono state 227 ordinanze del sindaco, e di queste 149, cioè i due terzi, hanno avuto a che fare con nomine, revoche, deleghe, assegnati assessori e dirigenti. E se dalle ordinanze del sindaco passiamo alle delibere di giunta, le delibere di giunta sono state 258, e in questo caso 75, cioè più di un terzo, hanno riguardato l'assunzione di personale esterno. Allora, il commento di Alessandro Barbera era: la Raggi ha passato gran parte del tempo da sindaco a occuparsi di poltrone. La sua giunta ha messo a contratto 102 collaboratori esterni, 12 in più di quelli nominati da Ignazio Marino, 15 più dell'era Alemanno. E però lo stesso Alessandro Barbera aggiungeva subito dopo: ma è ovvio che nel primo anno, quando cambia il colore politico di una amministrazione, nel primo anno, questo primo anno, in gran parte per mettere la macchina in condizioni di essere esecutiva, operativa, ma in linea con l'indirizzo del sindaco di chi ha vinto le elezioni, lo si passa appunto a scegliere le persone di fiducia che secondo il meccanismo dello spoil system legittimo nel nostro ordinamento da Bassini in avanti, e facoltà del sindaco e della giunta nominare. Certo, continuava Alessandro Barbera, qui siamo andati un po' oltre la fisiologia, perché quello che colpisce sono state le incertezze, i ripensamenti, gli incidenti, per così dire. A oggi mancano ancora il capo di gabinetto del sindaco, due assessori importanti, i lavori pubblici e i servizi sociali, e in un anno sono cambiati il vice sindaco, l'assessore all'ambiente, quello all'urbanistica, è cambiato due volte il titolare del bilancio, e solo all'AMA, l'azienda sui rifiuti che insieme all'ATAC, quella del trasporto pubblico, purtroppo condivide la triste realtà di rappresentare le due maggiori municipalizzate italiane più scassate in Italia, più scassate dal punto di vista del debito e dell'equilibrio, dello squilibrio di bilancio. Ecco, solo all'AMA si sono avvicendati in un anno quattro amministratori delegati e due direttori generali. Ecco, questo era, iniziando a esaminare quindi a che cosa si sono riferite le ordinanze del sindaco e dei deliberati della giunta, la prima considerazione abbastanza pesante di Alessandro Barbera, che finalmente ci ha raggiunto. Sei con noi? Eccoci qua, ciao Oscar. Ti sei perso i complimenti iniziali, perché ho detto che ho scelto questa analisi tra le tante uscite sui giornali italiani di un anno del bilancio di Roma, perché mi è sembrata quella più accurata e meno gravata da pregiudizi politici. Grazie mille. E ho anche aggiunto che, siccome la sindaca Raggi si difende oggi sul Messaggero, magari intervalliamo alle tue considerazioni anche qualcuna delle frasi, e che al Messaggero il sindaco di Roma riserva, difendendosi da punti più o meno analoghi. Allora, abbiamo fatto il quadro di queste misure iniziali. Se uno le paragona ad Alemanno e a Marino al loro inizio, eccetera eccetera, che impressione ha? Ma la Raggi non è stata né particolarmente prolifica né particolarmente avara di provvedimenti. Il problema è la qualità delle cose che si tiene. Mi sono fatto i conti, ho spulciato tutte le ordinanze, le delibere di giunte, le delibere di consiglio comunale di questo anno di amministrazione della Raggi. Insomma, non è uscito un quadro particolarmente ottimista, nel senso che la sensazione è che questi 5 stelle capitolini siano un po' confusi, non sappiano bene cosa vogliono. Insomma, prendiamo il caso della consiglio comunale, che diciamo dà il senso e l'indirizzo politico che un partito vuole dare a una città. In consiglio comunale la cosa che più di tutte è stata votata sono il pagamento dei debiti fuori bilancio a cavallo di Natale. Più di due terzi dei provvedimenti del consiglio comunale è il pagamento dei debiti fuori bilancio, peraltro alcuni dei quali sono finiti nel mirino della Corte dei Conti con il rischio, perché sospettano il danno erariale. Ecco, quando un'amministrazione in un anno fa, in una città come Roma, una delibera sulla cultura, una sulla scuola neanche particolarmente rilevanti e due sull'urbanistica, ma, ecco, la sensazione è che non abbiano ancora capito dove mettere bene le mani. Allora, quanto agli incarichi, perché io sono partito elencando le delibere per le poltrone, che era la prima parte della tua analisi, il sindaco Raggi scrive: sì, è vero, le nomine, tutto quello che volete, scrive al Messaggero, però la spesa annua per gli incarichi esterni della nostra giunta è circa un quarto rispetto ai 12 milioni di euro del 2012, quasi la metà rispetto ai 5,6 milioni del 2014. Quindi loro il sindaco dice: possono sembrare numerosi 102 incarichi esterni, ma in realtà sono pagati meno. E continua il sindaco: abbiamo trovato una città ferma, una macchina amministrativa stremata dalle triste vicende giudiziarie, tanta rassegnazione. Tuttavia, allo stesso tempo, posso affermare con altrettanta certezza che questa amministrazione darà e dà ogni giorno il massimo per portare nuove energie. E abbiamo trovato anche molte persone che aspettavano un'opportunità di riscatto, pronte a impegnarsi tutti i giorni al termine del lavoro quotidiano. Faccio un breve bilancio. Ci domandiamo se abbiamo fatto tutto il possibile. Certamente non abbiamo lasciato nulla di intentato. Non c'è dubbio che la strada da fare sia lunga in salita. Ci sono stati ostacoli, ma allo stesso tempo, dice il sindaco, non c'è dubbio che abbiamo messo la parola fine a un sistema corrotto che per anni ha mangiato i soldi delle nostre tasse. Passiamo a quel punto al secondo capitolo dell'analisi di Barbera, che è quella relativa ai rifiuti. Il titoletto che era in testa alla tua analisi sui rifiuti è: l'AMA, cioè la municipalizzata dei rifiuti, non cambia. Cioè, questa è la parte forse peggiore del bilancio dell'amministrazione Raggi di un anno, perché se c'è una cosa su cui il Movimento 5 Stelle negli anni si è contraddistinto, è l'idea, il principio molto chiaro di spingere al massimo il trattamento a chilometro zero dei rifiuti, il riuso del più possibile dei materiali, insomma una serie di concetti estremamente ambiziosi e peraltro condivisibili da, credo, dalla gran parte dei cittadini, però la verità è che in un anno l'amministrazione Raggi ha fatto l'esatto contrario di quello che ha promesso, cioè promette di spendere, di avere i chilometri, di trattare i rifiuti a distanze inferiori da quelle che oggi fanno costare i rifiuti 4 volte quelli di Milano, perché la cosa che non è nota di più è che l'AMA è in grado di gestire solo un quinto dei suoi rifiuti, dei rifiuti di Roma, l'80% dei rifiuti di Roma viene trasportato fuori Roma o addirittura all'estero, e questo appunto fa costare il trattamento 4 volte più di Milano, e non solo, ha preso delle decisioni che spingono nella direzione opposta a quella di aumentare l'efficienza dell'AMA. L'amministrazione precedente di Marino, piaccia o non piaccia, aveva però scelto di costruire dei nuovi siti di compostaggio per i rifiuti umidi. Ebbene, siccome a Rocca Cencia i residenti non vogliono il compostaggio dei rifiuti, hanno tagliato l'investimento sul nuovo sito di compostaggio, con il risultato che i rifiuti vanno di nuovo fuori Roma. Allora, aspetta, ti devo interrompere per una notizia, per un'informativa. Avviene a Parigi, verso le 15:40, sui Champs-Élysées, un uomo si è diretto con la sua auto contro un furgone della gendarmeria. E questa quindi azione si è svolta a poche centinaia di metri dall'Eliseo, dove questa sera Macron riceve il re di Giordania Abdallah, e quest'uomo si è diretto volontariamente con un veicolo contro un furgone della polizia, è stato bloccato e arrestato, non ci sono feriti, il quartiere è transennato, un primo lancio dell'agenzia parlava di un'auto in fiamme all'altezza della fermata della metropolitana Franklin Roosevelt e un uomo a terra. E invece le notizie successive, quindi quelle che dovrebbero fare testo allo stato attuale delle cose, parlano di un fermo non più di quest'auto in fiamme e di questa deliberata azione. Vedremo di saperne di più, vi terremo informati sull'identità dell'arrestato e se ci sono vittime, danni, di che proporzioni. Però stiamo parlando nel centro di Parigi, a poche centinaia di metri dall'Eliseo. Scusami se ti ho interrotto. Figurati. Per cui, diciamo, che cosa sta succedendo? Che la gestione dei rifiuti da parte dell'amministrazione Raggi ha prodotto il risultato che la raccolta differenziata, che negli ultimi 2 anni era migliorata un tasso dell'8% all'anno, quest'anno si è inchiodata. E quindi il Movimento 5 Stelle, che vende a tutti l'idea di essere coloro che contro il malaffare trattano i rifiuti meglio degli altri, il risultato è che a Roma l'immondizia costa cara esattamente come un anno fa, c'è meno raccolta differenziata e sono stati cambiati 4 volte i vertici della società municipalista. C'è qualcosa che non va. Il sindaco scrive al Messaggero: abbiamo dotato l'AMA di mezzi nuovi per la raccolta di rifiuti. Abbiamo avviato il reperimento di personale per la manutenzione del verde pubblico. Non dice nulla degli impianti, che è il problema più serio, perché chiudere il cerchio del trattamento completo dei rifiuti è il vero grande problema storico ereditato da questa giunta, perché mancano gli impianti per farlo. Scegliere i tipi di impianti significa fare una scelta di indirizzo non solo tecnico, ma tra virgolette tecnico-politico, su come si chiude il cerchio per trattare questi rifiuti, più dei quali prende la strade lontane. La vicenda di Pizzarotti, diciamo, e l'uscita di Pizzarotti dal Movimento 5 Stelle è esemplificativa della confusione che regna in casa 5 Stelle su questo tema. Aggiungo altri 2 dati. In questi giorni una delle ipotesi per risolvere il problema del compostaggio dei rifiuti, peraltro Manlio Cerroni continua a dettar legge, ha detto che tratterà meno rifiuti quanto oggi accoglie nei suoi impianti che noi cittadini paghiamo, l'amministrazione ha individuato un sito a Ostia, in autunno a Ostia si vota per il municipio e i 5 Stelle di Ostia hanno detto di essere contrari. Il piano industriale presentato dall'ultimo amministratore prima della nomina dei tre amministratori che ha voluto introdurre la RAGI in tutte le partecipate, Antonella Giglio, quindi l'ultimo piano industriale approvato sotto l'amministrazione RAGI, dice che gli investimenti per l'AMA nel prossimo quadriennio passano da 300 a 110 milioni. Perché? Perché sono stati tagliati tutti gli investimenti che erano stati previsti dall'ex amministratore delegato Fortini per i nuovi impianti. E questo dipende, dice la sindaca, naturalmente dal debito ereditato e dal fatto che i miracoli, vista le risorse a disposizione, non li può fare nessuno. Ma sta di fatto che la percentuale di discesa, di taglio degli investimenti proprio per questo e per l'AMA è di queste proporzioni. Torniamo tra un minuto, traffico intanto. Faircam Air and Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. La versione di Oscar. Nel frattempo, aggiornamento: il Ministero degli Interni da Parigi fa sapere che l'atto deliberato contro il furgone della gendarmerie di questo pomeriggio a Parigi sugli Champs-Élysées è terrorismo e l'inchiesta è stata immediatamente affidata alla Procura antiterrorismo e ai servizi. Non si ha allo stato informazione di feriti e tantomeno di vittime. Il responsabile del gesto è stato arrestato. Vi faremo sapere, naturalmente, continuando a essere sintonizzati su Radio 24. Veniamo a un altro capitolo, Alessandro Barbera, del bilancio, quello sulla mobilità. Ci sono cose che non tornano, a cominciare dagli strumenti stessi, principe, perché tu ricordi che nel novembre scorso, ormai passati molti mesi, fu approvato un atto dal Consiglio Comunale che diceva scioglieremo Roma Metropolitane. E invece l'assessore Colomban, che tu dipingi come una specie di commissario insieme al capo della CEA Lanzalone, voluti entrambi dai vertici nazionali del Movimento 5 Stelle per evitare che succedano troppi pasticci tecnici nella giunta, Colomban ha detto guardate, avete votato, non avete votato, ma in realtà Roma Metropolitana va avanti, è così? Questo è un altro aspetto della confusione che regna attorno alla maggioranza per dire a Raggi. La linea C della metropolitana io ricordo essere un progetto che risale alla fine dell'amministrazione Rutelli o all'inizio di quella di Veltroni, diciamo a seconda di quando lo si voglia far risalire. È una opera fondamentale per la città. Roma, ricordo che è una delle capitali europee più densamente popolare e più estesa, quasi 3 milioni di abitanti, e ancora due linee della metropolitana con un paio di derivanti, ma insomma sono due linee in sostanza. La linea C è per un tratto stata costruita, adesso c'è da fare l'altro tratto e a un certo punto nella maggioranza 5 Stelle che governa il comune, perché poi appunto c'è un sindaco, ma c'è un consiglio comunale, ci sono degli esponenti cittadini del Movimento 5 Stelle, e a un certo punto si è aperto un surreale dibattito su dove far arrivare la linea C, se farla terminare a San Giovanni, a Corviale oppure a Flaminio. Un dibattito decisamente surreale, perché voi considerate che un investimento come quello della linea C, la linea C è credo a tutt'oggi uno dei cantieri più grandi d'Europa, è fatto di investimenti, di progettazioni, di impegni con le società committenti, non si può aprire un dibattito a cantieri aperti, a tutt'ora c'è un cantiere aperto sotto i fori imperiali, discutere così in maniera naive su dove fare arrivare il tracciato e allo stesso tempo chiedere, non si capisce per quale ragione, lo scioglimento di Roma Metropolitana. Infatti Colomban, che è una specie di commissario prefettizio della Raggi insieme a Lanzarone, come hai detto bene tu, a un certo punto ha chiuso il dibattito, ha detto basta, ha riportato l'ordine nella classe, ha detto basta, Roma Metropolitana va avanti e ha chiuso il dibattito lì. Ecco, l'amministrazione 5 Stelle di Roma funziona un po' così. Allora, inutile dire che anche sulla linea C grava storicamente un problema di enorme sovraccosto per discostamento, anche per un gravissimo errore di progettazione su un tratto, e poi la solita storia italiana. Quindi anche infatti nel passato 5 Stelle alimentarono, anche questa è un po' la spiegazione del vediamo dove farla arrivare, una polemica frontale proprio sulla linea C, quando ovviamente non avevano vinto le elezioni. Ma su questo c'è chi, i radicali con Maggi e alcuni esponenti del PD ora che stanno all'opposizione, che hanno chiesto venga messa a gara il trasporto pubblico romano e hanno abbracciato questa tesi, adesso che sono all'opposizione, anche l'ex vice sindaco di Veltroni, Marco Causi, che all'epoca era assessore al bilancio, e esponenti della sinistra, PD come Walter Tocci. Che cosa pensa su questo invece la Giunta? Perché dietro l'angolo c'è Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato vuole la gara, perché vuole entrare, come in quasi tutte le grandi città italiane oramai, nel trasporto pubblico locale. Ed è come se sfidasse la Raggi dicendo: il tuo bilancio non ti consentirà mai di risanare il problema ATAC. Che cosa si capisce dall'analisi di un anno di Giunta su questo tema qua, della gara o non gara? Io temo che l'istinto prevalente dentro l'amministrazione sia un istinto conservatore, e che purtroppo una delle ragioni che ha portato la Raggi a vincere con un quasi plebiscito le elezioni a Roma sia perché ci sono molti interessi organizzati di Roma che hanno votato per la Raggi in cambio della promessa di non far cambiare alcune cose. Uno di questi è certamente il mondo sindacale che ruota attorno all'ATAC, che è un mondo estremamente potente, tanto quello dei tassisti, che a Roma conta tantissimo e che secondo me condiziona le scelte dell'amministrazione. È notizia dell'altro ieri o di ieri che l'assessore ombra la mobilità, questo Stefano, peraltro a Roma ci sono queste strane cose più che appunto c'è uno che ha un ruolo e poi in realtà ne esercita un altro, ma insomma lasciamo perdere questo, è andato a lamentarsi con i vertici dell'ATAC sulla gestione dell'ATAC. La gestione dell'ATAC è responsabilità del comune, è il comune che deve occuparsi di fare gli investimenti, di fare in modo che non ci siano dipendenti che chiedono la legge 104, che si danno malati quando devono lavorare. Una delle ragioni per le quali a Roma ci sono più di 300 guasti al giorno ad altrettanti autobus. Il parco circolante è di una vecchiaia, poi ci sono stati problemi nelle gare dai pneumatici, rubavano tutti. Vero, ma è altrettanto vero che il PD tentò di farlo e non ottenne di farlo, a Roma le officine dell'ATAC lavorano solo la mattina. Sì, lo so, questo infatti ne ho scritto X volte anch'io sul Messaggero, e io ho l'impressione, per così dire, che con la macchina interna i 5 Stelle siano un po' troppo gravati dalla tendenza al compromesso. Ci sarebbe tutto un capitolo che tu non hai trattato nel bilancio sul salario di produttività, quello ai dirigenti, eccetera, eccetera. Io ho visto tornare a pagare quote non pagate in passato. C'era una grande vertenza aperta perché Roma era una delle grandi capoluoghi che aveva la parte più rilevante del salario ordinario, che figurava come salario di produttività, per alcune qualifiche si arrivava fino a oltre il 30%. Non ho visto una grande innovazione su questo. Sentiamo come la pensa Massimiliano da Roma. Massimiliano, prego. Gianino, buongiorno. Buongiorno. Io arrivo da militante PD, votato convinto Marino, ho visto la sua defenestrazione. Non ho fatto altro che passare al Movimento 5 Stelle, perché fu un passaggio per me molto critico, E che pensa adesso? Ma non posso dire di aver sbagliato, perché non mi aspetto niente di meglio dal PD. Non ha fatto niente la Giunta Raggi di così qualificante all'interno di questi 12 mesi, perché purtroppo mi rendo io stesso conto che al Movimento 5 Stelle manca un'idea di fondo della città di Roma, come la vuole fare, come la interpreta. Capisco che ci sia stato il grande discorso del no alle Olimpiadi, ragionato in un certo modo, anche comprensibile, ma finito quel movimento, quel momento e quella discussione... Quello che lei non vede è un grande disegno di fondo, cioè un po' di improvvisazione, perché i guai disastrosi di Roma implicano senso delle priorità e governo di strumenti da ripensare nell'amministrazione capitolina. Io su questo sono molto d'accordo con lei, ma ringrazio a nome di tutti Alessandro Barbera per lo scrupolo di aver tirato giù tutti questi numeri. Guardate,